voglio creare. Voglio creare. Senza temere di dover disfare ciò che ho appena fatto. Gigi D'Agostino. Stai ascoltando Techno Waltz, Orchestra Maldestra. Sabato sera, questo qua, che è quello che arriva adesso, è il sabato 4 marzo alle ore 22:30 circa. Ci vediamo alla discoteca MEP in Via Latiro, come diceva una mia amica, al numero 21, Sestri Levante, provincia di Genova. Discoteca MEP, sabato sera 4 marzo. Ci vediamo lì. momento esperimento. Momento esperimento. Becca li sto dormendo. Esperimento, dormendo. Perciò è per tanto. Becca li sto dormendo. Il disco esperimento di oggi è. Il piacere intenso che può darmi un ritmo, devo trovare un passo che mi permetta di percorrerlo. Ma non voglio un semplice percorrere, voglio percorrere godendo col corpo e con l'anima. Quindi sarà fondamentale trovare il cammino perfetto per sentire l'effetto. Cammino perfetto, sentire l'effetto. Cammino perfetto, sentire l'effetto. Faccio così con tutto, anche con gli spaghetti. Gli spaghetti non mi piacciono da impazzire a prescindere. Gli spaghetti li voglio cotti al dente, conditi coi contromeloni e un po' piccanti. Ma torniamo a noi. La prima volta che ho sentito un ritmo come questo che stiamo ascoltando, mi sono fermato. La mia danza si è inceppata. Si è inceppata in un ragionamento ottuso, e cioè pensavo di non gradire quel ritmo solo perché non riuscivo a danzarlo. Poi ho cominciato a ballarlo, danzarlo, ballarlo, marciando alla metà del ritmo che percepivo. Avevo trovato la mia chiave, perché avevo trovato un mio modo di godermi quel ritmo. Cammino perfetto, sentire l'effetto. Quando riesci a trovare il passo, nessuno ti rompe il capo. E godi come un bastardo. Uno, due, uno, due. Questa è la marcia. Questa è la marcia. In apparenza lui è feroce, ma è lento, violento. Lento, violento. Vedi un po' dove è il freno. Cerca il freno. Ferma un po' sto treno. E cerca il freno e ferma un po' sto treno. Trovato il freno. Ferma un po' sto treno. Oh, ferma. Ci fermiamo un attimo per cambiare rotta. We'll be right back.

non mi ascolti ti tiro un cazzo. Sai cosa c'è? mentre costruisci l'emozione che ti sta dando la canzone. Il tuo sognare è il tuo saper immaginare. E tutto questo ti fa viaggiare. E tutto questo ti fa viaggiare. Yeah. accelerata, va. Di un bambino è il cammino di Gigi D'Agostino. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Stai ascoltando Moonlight Shadow, Luca Noi. Shot 6 times by a man on se vi capita, provate a guardare come ballano i bambini. A parte la gioia che proverete vedendo quello spettacolo, guardandoli vi verrà naturale fare una riflessione. Siamo noi ad essere piccoli quando decidiamo se mettere una camicia o un cappello, in base a quanto faccia ridere o meno agli altri. Ci porta lontano. Lontano, lontano. Ogni giorno ci gira intorno. Ci gira intorno. Questo è il cammino. Questo è un buongiorno. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il disco anziano di oggi è for like it sent us always, and I want you to surrender all my feelings and those today, and I want you to remember the power of children can amaze. I'll try not to complain. Said, baby, chemicals between us, the walls of love between us, lying in this bed. The chemicals displaced, there is no love to say, lying in this bed.